La gramigna, orribile infestante, incubo di tutti i contadini e gli agricoltori. È scattato attorno alle 22 dopo un passaparola anche via internet. Una trentina di attivisti del centro sociale Gramigna, il più radicale di... Te tagli la radice in 10 parti, avrai 10 Gramigna. Tu sei un uomo come tutti gli altri. Ami il potere? Sì, magmaticamente. Sei pronto a cederlo? Ma le erbacce non esistono. Esistono le erbe. Che sta a fa qui, l'usora gramigna? Non lo faccio, sora migragno, sapete voi, sora grifagna? Io sono un politico, ho bisogno di indicazioni concrete. Un albero dei fichi, in un anno, cresce nui fichi. Manfrate, che ci cresce, a barba? Che ne dici tu, sora grifagna? E sora gramigna, bisogna vedere quando piove si se bagna. Nella vigna la gramigna è peggio della vigna. Io sto in città, son come una formica nella folla dell'umanità che corre qua e là. A gran velocità con l'orologio che va, che va, che va. Io sto in città, non mi ricordo più la primavera che colore ha. Amici non ne ho e parlo per lo più con l'orologio che va, che va, che va. Felicità, non sei in città, viva la campagna. Cicale, un bianco puledro, il fiore di cedro, le stelle più grandi nel ciel. Ma io sto in città, cemento, palazzoni, cartelloni di pubblicità, in macchina su e giù, lottando per di più con l'orologio che va, che va, che va. Io sto in città, rumori fastidiosi, la nevrosi mi divora già. La gente viene e va, ma non sorride più, c'ha l'orologio che va, che va, che va. Felicità, non sei in città, viva la campagna, viva la campagna, la civiltà. Bambini, tacchini, pulcini, casette, cosette, forchette, saette, tramonti, racconti, bisonti, rimpianti, castagne, lasagne, lavagne, montagne, ombrelli, fratelli, cartelli, caselli, bestiame, pollame, caldrame, legname, trattori, fattori, pittori, rumori, patate, frittate, posate, scartate, fontane, poltrone, cantine, cartoni, fornelli, randelli, piselli, martelli, cucchieri, bicchieri, mistieri, bicchieri, profumi, concini, legumi, barbuni, cipolle, corolle, betulle, farfalle, formaggi, coralli. Tutti i giorni, al tempo delle olive, migliaia di donne lasciano all'alba il paese per raggiungere i campi di raccolta. Queste sono calabresi della zona di Gioia Tauro. Vengono anche da Rizziconi, da Taurea Nova, da Giulia Nova. Si spostano a gruppi aspettandosi agli incroci delle strade. È un esodo che si ripete ogni anno e che da centinaia di anni avviene nella stessa maniera. Senta signora, dove abita lei? In Taurea Nova. E quanti chilometri fa al giorno? 8 chilometri alla mattina e 8 alla sera. Cioè 16 chilometri? 16 chilometri. E li fa tutti a piedi? Tutti a piedi. Quando si alza la mattina? Alle 5. Alle 5. E quando rincasa la sera? Alle 6. Alle 6 di sera. Ha figli, signora? Sì, 5. 5 figli. E che fa appena è tornata a casa? Quando vai a casa, cucino, lavo, preparo. E quando va a letto? Le 9 meno un quarto, alle 8:30. Signora, senta, è duro far sempre la strada a piedi, vero? Sì, è troppo duro. E la sera come vi sentite? Quando andiamo a casa non mi piace nemmeno il mangiare. Voi andate sempre a lavorare? Sì, signore. Anche quando piove? Sì. E le bambine non si stancano? No, sono abituate le creature. Thank you. Noi che cosa abbiamo creato in Italia? Abbiamo creato tutti i professori. Abbiamo creato la lotta tra la città e le campagne. Quindi, quando noi facciamo tutti i professori, facciamo i contadini, li facciamo professori. La terra chi la lavora? Tutte le cose vanno a lupinino, e da lupe io ci si inclina ognuno. Accudunacco leva lo destino, e non ci pare mai l'uno su d'uno. Non riparo l'uno su cammino, poco credi lo saggia all'importuno. Lo ricco manco credi allo meschino, lo sazio non grida allo Dio no. Vi troppo vento l'uva si aggiusperra, vi la gran breve l'uma la tu sparla. Passa i consigli si perdi la guerra, e più tanti giudici si sgarra. Lauda l'umare e teniti alla terra, pensa la cosa prima che si sparla. Per chi hai un disudire alla mia terra, con fa le cose giuste mai li sgarra. A chianci di figlio zocchi ci cavi, lo sanno da ribelli e poi morire. Pazienza ci vuole ali burraschi, che non si mangia meli senza mosche. Ma quando le privole assicutari, né uno e nell'auto può agarrare. Ma con un valo gruppo alla gugliata, perdi lo punto chiui di una volta. Ci disse lui a giuzzo la puttassa, tutto lo mondo è come casa nostra. Ci disse la padetta la gradiglia, ai pisci grossi mangia e no fragaglia. A costa venica mangia cartuna, calo castello mangia nu picciuna. Rispondetici lo zio Nicola, si la pigna don fuggi no zicala. Lo picura ruca fa la ricotta, lo sapito la vici che aspetta. La furca non è fatta per lo ricco, è fatta per la testa di lo porco. E nella testa d'un maiale tu ci mangi, tu ci sciali. Nella testa d'un coniglio niente lasse e niente piglio. Timbi la teggio di vivi lo vino, cadi te nello stomaco un tono. Quando c'avo lo latino, fugnuranza di parrino. Un c'è feste né festino, si un giobbone che un parrino. Ma l'umore acuta abbatia, a Gesù lo patronia. C'è la Monica di casa, a Gesù lo stringe a vasa. Nella casa di Gesù, zocco già su nesci più. Ma avi una buona vigna, avi pane, vino e ligna, e lo tribule e lo bene, cucci lavi si lo ten. Quando chiovi di mattina, piglia la rata e va semina. Quando vene lo giugnetto, lo furmento sotto l'uletto. Ma la luna di gennaro, luci come un giorno chiaro. Signor Rosso, chiovete, chiovete. viti che lavora già su morti di siti e si acconima nati siamo persi e consumati. L'acqua d'ingelo sazia la terra, fonte piena di pietà, le nostre lacrime posano in terra e Dio ne fa la carità. Nesci, nesci, soli, soli, per lo santo salvatore, e ton pugno di nucigi, a ricria le picciriggi, e ton pugno di dinari, a ricria le cristiani, e ton pugno di fumeri, a ricria le cavalieri. Nesci, nesci, soli, soli, per lo santo salvatore, e ton pugno di nucigi, a ricria le picciriggi, e ton pugno di dinari, a ricria le cristiani, e ton pugno di fumeri. Harry Criali Cavaleri. Le menti degli steampunk, aperte alla meccanica come sono, saranno quant'altre mai capaci a capo dei dilemmi che senz'altro sorgeranno. E sarà con massima consapevolezza che dovremo accostarci alla questione agricola. L'agricoltura tradizionale, quella in uso nelle società contadini preindustriali, è lungi dall'essere perfetta. Con la loro scarsa lungimiranza, molte fattorie impoverivano lo stesso terreno che dava loro nutrimento. Inoltre, l'estenuante lavoro agricolo imposto a tante braccia acuiva la miseria delle classi più sventurate, come pure i divari culturali, in quanto i contadini non disponevano di tempo libero per migliorare la propria istruzione. Noi non abbiamo alcuna intenzione di riprodurre una siffatta trappola. Applicando determinate conoscenze al processo agricolo, si può minimizzare la quantità di manodopera necessaria, eliminando di sana pianta i rischi per il terreno. Il processo di cui parliamo reca il nome di permacultura. Sebbene tale metodo sia troppo complesso per poterlo descrivere nel dettaglio all'interno della presente trasmissione, i suoi fondamenti sono assai semplici. La biomassa e le sostanze nutritive si trovano all'interno di un ciclo chiuso e privo di scorie. L'orto è dotato di molteplici strati, ciascuno dei quali rinforza gli altri. Le case sono incluse in tale armonia attraverso la loro stessa struttura e mediante le fondamenta. Vi incoraggiamo a condurre ricerche indipendenti su questi principi affinché possiate intrecciare assieme la sfera meccanica e quella organica per ottenere un autentico paradiso terrestre che vi offra nutrimento garantendovi il tempo per continuare ad armeggiare con i vostri manufatti. Thank you. Basta equiparare il primitivismo idealizzato con il selvaggio, e il selvaggio non è più uno sconosciuto da dover scoprire ed esplorare, ma un modello noto a cui tornare. Non voglio arrivare alla reificazione delle culture non civilizzate implicita in una tale costruzione. Pochi anni or sono scrissi «Allora, come diventare selvaggi?» per riaffermare l'aspetto più importante della mia idea di selvaggio come incognita all'interno della discussione. Come sarà chiaro da questo scritto, la mia critica della civilizzazione non è nata dal pensiero primitivista né dall'ambientalismo, ma dall'esame dell'alienazione, del dominio e dello sfruttamento imposto a quasi tutti gli umani della società presente. Perciò il mio interesse non è mai stato il ritorno della Terra a un qualche immaginario stato edenico e originario, il che sarebbe solo un programma politico come gli altri in cerca di adesioni, ma la creazione di un progetto con lo scopo di una rottura insurrezionale con il mondo presente e l'apertura di una miriade di possibilità da esplorare e sperimentare. Per me la critica della civilizzazione è anzitutto uno strumento teorico per lo sviluppo di tale progetto, un progetto inteso a portare a quella rivoluzione che può giustamente essere chiamata un momento collettivo per la realizzazione individuale. Non ci possono essere degli esperti in selvatichezza umana, nessun leader che ci possa condurre là, nemmeno il compagno che ha vissuto nella foresta per gli ultimi 15 anni e l'ha guardata attraverso delle lenti civilizzate quali natura, madre terra, il cerchio della vita, considerandosi come il giudice di chi conosce o meno lo stato selvaggio. Per chiunque possa leggere questo scritto, e quindi evidentemente è civilizzato, lo stato selvaggio è un concetto, un'idea, che può ispirare la rivolta. Ma questo potenziale ispirare la rivolta non nasce da ogni risposta che questa idea sembra dare, come ogni idea liberatoria, che non è diventata ideologia, non fornisce alcuna risposta, ma dalle questioni che solleva e dai problemi che pone. Troppo spesso la retorica degli anarchici anticivilizzazione è farcita di ascetismo e di una morale del sacrificio, mentre io considero la rivolta contro la civilizzazione precisamente una rivolta contro l'ascetismo imposto dalle istituzioni della civilizzazione, una rivolta contro l'incanalamento del desiderio nella produzione, nel consumo e nella riproduzione sociale. Nel nostro ambiente ci sono già state tante buone esplorazioni di ciò che le culture non civilizzate possono significare per noi. Io esplorerei piuttosto che cosa possa significare diventare selvaggi come pratica insurrezionale nel presente. Tutto questo può sembrare astratto. Dopotutto, per l'individuo civilizzato lo stato selvaggio è un concetto astratto e rimarrà tale finché non si trae ispirazione da questa idea. Non come ideale che scende dall'alto, ma come concezione della vita che si desidera creare qui e ora, per insorgere nella ribellione attiva contro il proprio addomesticamento e contro tutte le istituzioni della civilizzazione che lo impongono. Mi fisso col cervello, penso a un culo. La pratica dello stato selvaggio deve essere una sperimentazione perpetua, che incorpora la creazione volontaria di ogni momento della propria vita per se stessa e il rifiuto volontario, attraverso l'azione distruttiva, del dominio in ogni sua forma, e cioè dell'addomesticamento e della civilizzazione come la conosciamo noi. Tale sperimentazione ci trasformerà e trasformerà i nostri modi di interagire con il mondo. Nel contesto della civilizzazione, questa può essere la migliore comprensione pratica di ciò che lo stato selvaggio può essere per noi. Mi fisso col cervello, penso a un culo.

mess it up. No, we go. Sa bebe. Sa bebe. Yeah, yeah. Sa bebe. Bebe, bebe, bebe. No, no. Quante volte te lo devo dire che allo locale me nessuno ha mai parlato di politica. E allora di che cosa volete parlare? Se ragiono di un po' di tutto. Se ragiono dei prezzi, delle pacche, delle tasse. Ecco, sono tutte cose di cui non si deve più parlare. Ma non è un ordine speciale per Fontamara, no? È una cosa per tutta l'Italia. Non bisogna più parlare nei locali di tasse, di salari, di prezzi. Allora, se vuoi più ragionare. Bravo, hai capito perfettamente. Ma del resto... del resto, a che servono i ragionamenti? Se hai fame, te ne puoi mangiare. Vedi che è il caso di farla finita con queste cose inutili. E allora spiegalo con parole più chiare. E come sarebbe? Sarebbe... Dammo qua. Da tutti i guai di Lucafone vengono proprio dal loro ragionamento, perché Lucafone è, come si dice, un asino, ragionevole, però è proprio attraverso il ragionamento viene ragionato a fare la fama, o viene ragionato ad avere paura del padrone, oppure viene ragionato a fare la guerra, oppure che dopo la morte ci sta l'inferno e se non sobbedisce. Voglio dire, vogliamo per esempio gli 8.000 uomini che lavorano dentro la terra del Fucino. E mettiamo che invece di essere asine ragionevoli, cioè arragionate ad avere paura dello prete, dello carabiniero, dello giudice, sono veramente degli asini, degli ciucci, senza ragione. E che ne sai, io credo che lo principe Torloni se ne esse per straccia a cercare la lemosina. Tu dici che sei contro il ragionamento, ma a me pare che ragioni anche troppo. Cara Innocenza, vedi, tu sei venuto qua e mo te ne devi tornare ad Avezzana da solo. E per la strada non ci sta la luce. Che cosa ci può impedire a noi, poveri cafoni, da accopparti? Eh? No, rispondi. E ce la può impedire proprio il ragionamento. Tu hai scritto sopra quel cartello che in questo locale sono vietati i ragionamenti. E allora? Ma te ti va sempre di scherzare, Berardo. E morì, chi è inchinata da sé, l'ordine un colpo e onna pa' i figli, onna morì giorno per giorno, come ha già visto morì a figli, onna tu mi sospiri, in che braccio meglio. È una politica corrotta praticamente, c'è troppa mafia, ecomafia, cioè, ci sono persone che non hanno voglia di reagire, ecco il perché. Le istituzioni cosa stanno facendo? Niente, assolutamente niente, si continua a smaltire immondizia dappertutto, si continua a morire di cancro come al solito e loro seduti in una scrivania senza fare assolutamente niente. La prescrizione. Colpa dell'ambiente, dell'inquinamento, nessuno fa nulla per aiutarci. Dobbiamo lottare da soli, infatti. siamo per la strada, farci sentire e farci vedere. C'è chi sta continuando a lottare, chi ha lottato ha vinto, chi ha lottato ha perso, dipende, però comunque lottiamo tutti. Contaminata dalla diossina. C'è la diossina nel... C'è la diossina nella cozza. Io sai dove abito? A 50 metri dal Parco Minerali. A me mi divide la collina. Non so, ma sono sempre sostanze... nocive quelle che... non è che esce lo zucchero filato da là dentro. Delle persone che mi sono decedute. Mia cognata tumore alla gamba, l'osso sarcoma, la moglie di mio fratello. Pienamente ragione. Mio suocero, la sorella di mio suocero, mia madre un tumore alla testa. Io ho 46 anni, non lo so se vedrò la luce a 50 anni. Noi siamo contaminati, però almeno facciamo qualcosa per il futuro dei nostri figli, dei bambini. Io sono un dipendente ILVA, appunto. E tu vai all'ILVA e vai a lavorare, e i tuoi figli hanno il tumore, tu hai il tumore, mio padre tiene 3 tumori. Bravo. Qui a tanto non c'è l'alternativa, ragazzi, perché la Marina ha chiuso, la Salma chiuderà a giugno. Ma tu lavori all'ILVA? Tu lavori all'ILVA? No, no, no. Ah, ecco! Tu perché non ci lavori? Tu perché non ci lavori? Perché tu devi essere egoista e devi mantenere il tuo posto di lavoro e io devo morire per la tua scelta? Dove sta scritto? Qua mangiano 100.000 persone. È un discorso politico. 100.000 persone mangiano. Lasciate perdere l'ILVA perché è l'unica risorsa che ci abbiamo. Non solo Taranto vive di ILVA, ma anche la provincia. La provincia, la Puglia e l'Italia intera. Prego tutti o cittadini di ascoltare cuori contadini, che dopo tanto che si lavora e mai di pace non abbiamo un'ora. Con la zappa e lo zappone e lo zaino e sui groppone, giovani e vecchi tutti armati, noi sembriamo tanti soldati. Si va con la speranza della raccolta, si spera sempre sarà dimorta, poi ve la ruggine e la grinata, ecco la vita bella e disperata. Quando la faccenda è fatta, qui po' di grano che si raccatta, e poi viene la battitura, e tutti corgano con gran premura. Il primo frate che vien sull'aia salute capoccia e po' la massaia, e a sedere si metta e fresco, lo vuole grano per San Francesco. poi c'è Cappuccino con quella barba che gli ci viene dopo l'alba, padre Dionisi e San Gregorio, a catà dell'anima e purgatorio. Poi c'è la Monica con la sacchetta, lo vuole gran per Santa Elisabetta, per mantenere l'uso e il sistema, è contadino la raccolta scema. Poi c'è il sensale con la bugia, lui più di tutti ne porta via, e con la scusa di vedere la stalla, lo vuole pieno per la cavalla. Poi c'è il dottore veterinario, il fabbro e il sarto e il calzolaio, la levatrice con il becchino e tutti addosso il poro contadino. Mangiare e bere a mietitori e può pagarli saranno dolori, e gli ci corre giù alla lesta, ai contadino cosa gli ci resta. Lasciamo sta queste partite, ma ce n'è d'altre più squisite, e di tutte queste è peggiore, la mezza parte la vuole il padrone. Poi viene il tempo della vendemmia, e allora sì che si bestemmia, e li si mette dentro le botte, e li si vende buonanotte. Poi si prende un po' di vinaccia, si fa una botte con acqua e taccia, e li si beve tutto l'inverno, si soffre pene dell'inferno. Poi c'è la massaia che viene in piazza con quei bei polli di prima razza per rivestire i loro bambini a casa porta dei salacchini. Poi c'è le ragazze fresche e belle per farsi il letto e le gonnelle, e dietro l'uscio le ponga all'ova e di gli spiaccia pone sulle cova. Così successa a miei finali, e si sta peggio dei maiali, e si lavora quante voi, e maltrattati siamo sempre noi.